Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Cortei in tutta Italia contro la riforma della scuola. Tensioni e lancio di bombe carta a Napoli. Feriti 2 studenti e 4 poliziotti, contusi a Milano. L'orrore in una casa in Baviera. La polizia tedesca trova i corpi di 7 neonati. Irrintracciabile al momento quella che si ritiene essere la madre. Indaga l'antiterrorismo sul ferimento di un ebreo ortodosso a Milano. L'aggressore era incappucciato e non ha parlato. Tutte le ipotesi ancora aperte. È stato colpito in un raid americano in Siria Jihadi John, il britannico dell'ISIS, protagonista dei video con decapitazioni. In Iraq i curdi conquistano la città di Sinjar. PIL italiano peggio delle attese nel secondo trimestre, più 0,2% contro il più 0,3% previsto. Migliorano i consumi interni ma peggiora l'export. Questa sera l'Italia alla prova dell'amichevole di lusso contro il Belgio, primo nel ranking mondiale FIFA. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, e da qualche giorno, come sapete, come vi hanno riferito anche gli altri colleghi nelle altre trasmissioni, c'è anche WhatsApp, potete utilizzare lo stesso numero che usate per gli SMS, il 349-238-6666 per domande, osservazioni, critiche e chissà mai anche complimenti. Apriamo parlando dei cortei in varie città d'Italia, cortei e proteste degli studenti, attimi di tensione a Napoli come a Milano. Ci aggiorna in diretta la nostra Maria Piera Ceci, eccoci. Sì, buongiorno Simone. Allora, ancora una protesta questa mattina contro la legge 107, quella che tutti conoscono come la riforma della buona scuola. Chiamare in piazza insegnanti e studenti in particolare oggi sono stati COBAS e ANIEF. Cortei, come dicevi, si stanno svolgendo in varie città, Torino, Milano, Roma, Napoli. Ecco, quello che sentite, si sente male, ma insomma è uno dei tantissimi audio che circolano in rete, naturalmente, dei momenti di tensione a Napoli fra manifestanti e forze dell'ordine. Alcuni studenti sarebbero stati manganellati sostanzialmente, così dicono loro almeno. Il bilancio è di 4 agenti feriti e 2 ragazzi che si sono sentiti male mentre i poliziotti in assetto antisommossa facevano un'azione di alleggerimento. 2 studenti sono stati poi portati in questura. Momento di tensione anche a Torino, sentite l'audio che arriva proprio da Torino, dove alcuni studenti in piazza Castello hanno bruciato una bandiera del PD, e queste erano proprio gli audio relativi a questo momento. Sono state lanciate anche uova contro la sede del MIUR e sono stati accesi alcuni fumogeni imbrattati i muri di una banca. Fumogeni colorati anche davanti alla sede del MIUR a Roma, dove poco fa è arrivato il corteo che si è snodato dietro uno striscione che recita no all'applicazione della legge 107, come dicevamo, al preside Padrone, uno dei punti che viene più criticato, che valuta, assume e licenzia. Stessi toni a Milano. Buttiamo i nostri registri, buttiamo le nostre valutazioni, boicottiamo le valutazioni, non esiste la scuola delle valutazioni. La scuola è un'istituzione totale alla... Uno dei tanti discorsi che si sentono a Milano, si stanno alternando appunto vari oratori, sono soprattutto insegnanti, un professore, per quanto riguarda Milano, un professore e una studentessa sono stati colpiti alla testa in maniera non grave, e vi leggo lo striscione in cima al corteo: contro gerarchie scuola azienda resistiamo alla buona scuola. Quindi questo, Simone, in sostanza il tono delle manifestazioni di oggi. Vedremo come evolverà la giornata, intanto ti ringrazio, grazie a Maria Piera Ceci per questi aggiornamenti. Noi passiamo alla cronaca dall'estero e ci spostiamo in Germania, in Baviera, dove la polizia ha fatto una scoperta orribile. Ne parliamo in diretta con la nostra Adriana Fracchi. Adriana. Sì, buongiorno. Una macabra scoperta davvero, quella fatta dalla polizia tedesca in un appartamento di Wallenfels in Franconia, nel nord della Baviera. I corpi di 7 bambini, tra cui dei neonati, sono stati infatti rinvenuti dopo la segnalazione di un medico che si era recato nel condominio per una visita d'urgenza a domicilio. I poliziotti hanno ritrovato in un appartamento prima 2 corpicini di 2 neonati, poi ne hanno scoperti altri 5. Ora è stata avviata un'inchiesta per stabilire da quanto tempo i bambini fossero deceduti. La prossima settimana verrà fatta l'autopsia. un'autopsia al fine di accertare le cause della morte, poiché i cadaveri dei piccoli erano tutti in avanzato stato di decomposizione. Sospettata la madre, una 45enne titolare di un chiosco, che era sposata ma secondo chi la conosceva avrebbe avuto relazioni con più uomini. La donna al momento viveva coi suoi figli di 12-13 anni, ma nel corso degli anni, come hanno riferito i vicini, ha avuto più gravidanze, non si sa se con il marito o con altri. Al momento la donna, descritta comunque come gentile e cortese, è scomparsa da casa e la polizia le sta dando la caccia in tutta la regione di Vallenfels. Grazie ad Adriana Fracchia per questo aggiornamento, vedremo come si evolverà anche questa vicenda. E veniamo a quello che sembra poter essere un vero e proprio attentato, con modalità simili a quelle che si stanno verificando in Israele. Un ebreo ortodosso è stato colpito ieri a coltellate a Milano. Il punto. È quella di tentato omicidio, l'ipotesi di reato privilegiata dalla Procura di Milano sul caso dell'ebreo accoltellato ieri sera nel quartiere ebraico del capoluogo lombardo. Gli inquirenti stanno ancora valutando se contestare o meno l'aggravante dell'odio razziale. L'inchiesta è stata presa in carico direttamente dal procuratore aggiunto di Milano Maurizio Romanelli, che coordina il pool antiterrorismo e di contrasto ai reati cosiddetti politici. La vittima dell'aggressione, il quarantenne israeliano Nathan Graf, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. L'aggressore, incappucciato, lo ha colpito alla schiena, al braccio e al volto, a quanto pare senza dire niente. Questa mattina è stata convocata una riunione straordinaria del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Alla Sinagoga Centrale di Milano la situazione è tranquilla, così come nel quartiere dove è avvenuta l'aggressione, ma in attesa di capire il movente dell'agguato, la vigilanza agli obiettivi sensibili è stata intensificata. Al ristorante Kasher Kar, vicino al quale è avvenuta l'aggressione, si dicono molto preoccupati e tendono ad escludere la pista personale. Una persona talmente per bene che di personale non c'è niente. Cosa possiamo dire? Che siamo preoccupati. Il timore è che si tratti di un episodio simile a quelli avvenuti a Parigi, con i cani sciolti che emulano quanto avviene in Medio Oriente. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di questo tra l'altro torneremo a parlare più avanti e lo faremo con un esponente della comunità ebraica di Milano che questa mattina ha partecipato al vertice in prefettura. Vedremo di capire anche dal punto di vista delle notizie se ci sono dettagli ulteriori. Nel frattempo ne arriva una buona, ossia che Nathan Graf, l'uomo accoltellato ieri sera a Milano, è fuori pericolo, notizia che arriva dall'ospedale. Ovviamente questa vicenda sta già suscitando molte reazioni politiche. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, molte le reazioni sull'aggressione a Nathan Graf. Per il sindaco di Milano Giuliano Pisapia è un fatto gravissimo che non può e non deve restare impunito. Voglio esprimere, scrive il primo cittadino di Milano, la mia profonda indignazione, la mia solidarietà a Nathan Graf e alla sua famiglia. Per Emanuele Fiano, deputato PD di religione ebraica, non bisogna avere paura, e questo è l'insegnamento che abbiamo ricevuto e che manterremo, ma l'accoltellamento di un cittadino ebreo ortodosso a Milano fa venire brutti pensieri e fa tornare la memoria agli episodi analoghi in Francia nel resto d'Europa. Per Francesco Toti di Forza Italia è un episodio grave che riguarda tutti e non solo gli ebrei, contro l'odio antiebraico e antisionista senza se e senza ma. Per Fabrizio Cicchitto del Nuovo Centrodestra, presidente della Commissione Esteri della Camera, invece c'è indignazione, un ferimento che ha alle spalle un bruttissimo clima di antisemitismo. Per Grimaldi della Lega invece l'accoltellato è colpa della deriva antisemita e delle politiche buoniste e lassiste di questo governo. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito anche per questo aggiornamento e continuiamo a parlare di terrorismo e ci spostiamo in Siria, dove un raid americano avrebbe colpito uccidendolo, ma l'ISIS smentisce, lo jihadista di origine britannica protagonista di alcuni video nei quali lo si vede decapitare alcuni prigionieri, ossia jihadi John il servizio. La Gran Bretagna non è ancora certa che Jihadi John, il boia dell'ISIS responsabile della decapitazione di alcuni ostaggi occidentali, sia stato ucciso in un attacco aereo americano in Siria. A dirlo il primo ministro di Londra David Cameron, che ha però confermato che il raid americano è stato condotto in maniera congiunta con l'intelligence britannica. Secondo fonti citate da Sky News, Jihadi John sarebbe invece ferito ma ancora vivo, a riferirlo testimoni oculari a Raqqa, che dicono di aver visto portare il jihadista in ospedale. Le stesse fonti, però, sostengono che l'ospedale locale sia stato chiuso al pubblico e questo accadrebbe solo quando un militante di alto livello viene ucciso. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo all'economia italiana. I dati sul prodotto interno lordo diffusi questa mattina dall'Istat. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Un dato, quello dell'Istat, che raffredda gli entusiasmi di questa estate caratterizzata da valori, seppure riferiti a decimali, in costante crescita. Il terzo trimestre 2015 segna allora una leggera frenata. Il prodotto interno lordo è aumentato infatti dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. La crescita congiunturale rallenta quindi dopo il più 0,3% del secondo e il più 0,4% del primo trimestre e risulta sotto le attese degli analisti e dello stesso Istat, che indicavano un più 0,3%. Bene la domanda interna, male il mercato estero alla base della performance. Il rialzo tendenziale, più 0,9%, sia anno su anno, riferito al terzo trimestre del 2014, è invece il più alto dal 2011, ovvero da più di 4 anni. Alla luce di questi dati, la crescita acquisita del PIL per il 2015 è, secondo l'Istat, pari a più 0,6%. Per raggiungere lo 0,9% previsto dal governo servirà un vero e proprio scatto in avanti del PIL nell'ultimo trimestre dell'anno, pari almeno allo 0,8%. Dall'economia arrivano segnali positivi, ma non ci si può accontentare, commenta il presidente del Consiglio Renzi. Gli ultimi dati congiunturali raffreddano i bollenti spiriti di Renzi, dice invece Brunetta, Forza Italia. È tutto, linea allo studio. E grazie anche al nostro Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento sui dati che andremo a commentare più avanti nel corso della trasmissione con Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. I problemi per l'esecutivo riguardano più che altro per il Partito Democratico. Continua a riguardare però il caso di Vincenzo De Luca, il presidente della regione Campania. Nell'inchiesta che lo coinvolge di queste ultime ore emergono nuove intercettazioni. Sentiamo. Io i patti li ho rispettati, ora sta a loro giocare. Sono ancora una volta nelle parole di Guglielmo Manna, il marito della giudice Anna Scognamiglio, le tracce di quanto gli inquirenti sospettano, un patto inconfessabile, cioè per avere il via libera alla regione in cambio di un incarico nella sanità. Incarico in realtà mai assegnato, ed è per questo che alla vigilia della sentenza del Tribunale Civile di Napoli, che permise a Vincenzo De Luca di insediarsi nonostante la legge Severino, Manna sbotta al telefono. Io non faccio il direttore generale, va bene, però tu, prospetta parlando con uno degli intermediari, non fai il presidente, io perdo 5, quantifica, tu perdi 100. Parole chiare mandate dagli inquirenti romani, titolari del fascicolo al CSM, che sta valutando un trasferimento in altra città per incompatibilità ambientale e funzionale del giudice già spostata dal presidente del tribunale. È soprattutto la sua e quella del marito la posizione più difficile in questa indagine, partita da un filone su sanità, politica e camorra, filone tuttora aperto. Mentre questa parte dell'inchiesta, trasferita a Roma proprio per la presenza di una toga, potrebbe essere chiusa assai presto, fanno capire da Piazzale Clodio. E in attesa degli sviluppi giudiziari la Campania di nuovo traballa, mentre i 5 Stelle presentano al Consiglio regionale una mozione di sfiducia per il presidente. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Un caso che mette decisamente in imbarazzo il PD. A questo è dedicata l'analisi di oggi del nostro Daniele Biacchessi. I casi politici di Ignazio Marino a Roma e Vincenzo De Luca in Campania sono diversi per forma e sostanza, ma sono accomunati da una gestione poco brillante da parte del Partito Democratico. Marino non ha mai ottenuto una sfiducia formale politica da parte della maggioranza che lo aveva sostenuto e alla fine se n'è andato perché i consiglieri si erano dimessi, dunque perché non c'era più l'assemblea capitolina. A molti osservatori è sembrata una scelta che ha dimostrato l'evidente imbarazzo da parte dei dirigenti del PD, primo tra tutti Matteo Orfini. Lo stesso imbarazzo che viene avvertito al Nazareno nei giorni in cui infuria l'inchiesta su De Luca in Campania. Il ministro Orlando si smarca e afferma che fosse stato per lui non l'avrebbe neanche candidato. Il premier Renzi è in attesa di sviluppi e resta in silenzio. Solo Orfini bolla questa vicenda in salsa campana come oscura. Aspettiamo di capire, dice Orfini. Marino e De Luca sono due casi completamente diversi. La vicenda degli scontrini non era la ragione per cui chiedevamo le dimissioni di Marino, era l'ultimo di una serie interminabile di errori. Sì, è vero, sono casi diversi, ma le soluzioni messe in campo dimostrano la scarsa competenza del personale politico destinato a risolvere i conflitti. E dunque, visto che già il nostro Daniele Biacchessi ci accennava alle vicende di Roma e alle vicende di Ignazio Marino, beh, diciamo che oggi c'è arriverà dal Consiglio dei Ministri che si è riunito anche uno stanziamento per il Giubileo, mentre però emergono dettagli dalla relazione del prefetto Gabrielli proprio sulla gestione di Roma. Facciamo un punto con Andrea Viali. Andrea. Sì, è così, Simone, buongiorno. Dovrebbe essere iniziata da qualche minuto questa riunione del Consiglio dei Ministri, dalla quale, lo dicevi, è atteso lo sblocco di nuovi fondi per il Giubileo straordinario che, lo ricordiamo, prenderà il via tra 20 giorni o poco più. Si parla di 150 milioni previsti da un decreto che nel complesso comunque dovrebbe stanziare risorse per circa 1 miliardo di euro che dovrebbero andare anche alla Terra dei Fuochi, all'area di Bagnoli e al dopo Expo. Sempre per quanto riguarda Roma, invece sembra destinata a slittare di nuovo la nomina del Dream Team, lo ricordiamo, promesso da Renzi, questa squadra che dovrà affiancare il prefetto di Roma Gabrielli nella gestione proprio dell'anno santo. E a proposito di Gabrielli, fa discutere oggi la sua relazione sul Campidoglio, relazione inviata al ministro dell'Interno Alfano, un dossier nel quale in pratica il prefetto sostiene che il comune di Roma è ancora inquinato. Ad un anno dagli arresti di Mafia Capitale ci sono ancora ostacoli da parte dei dirigenti e criticità, dice Gabrielli, nei controlli anche in quelli che riguardano gli atti di bilancio. Simone. E grazie Andrea Viali per questo aggiornamento. Torna con noi Calogero Foti, che è ingegnere dirigente generale della Protezione Civile in Sicilia e commissario delegato per l'emergenza idrica, e parliamo evidentemente di Messina. Foti, bentornato. Buongiorno. A che punto siamo? Procedono i lavori, secondo il cronoprogramma, siamo discretamente a punto con le varie fasi e siamo fiduciosi in un pronto. La data di domenica per il ripristino, come dire, di una parte della fornitura di acqua a Messina, 600 litri al secondo, mi pare, è verosimile la data di domenica. Quindi domenica arriveranno questi 600 litri d'acqua al secondo, ce ne vogliono 1000 però in realtà per rifornire correttamente la città, o mi sbaglio? Già ci sono, perché 300 sono stati assegnati attraverso un bypass dell'Alcantara, 200 sono forniti da un'altra sorgente, da un altro acquedotto, e altri 100 da pozzi che esistono, quindi è perfettamente coperta la necessità di fornitura alla città di Messina. Foti, si faccia fare un'altra domanda. Siamo stati piuttosto fortunati perché la cosiddetta estate di San Martino è stata piuttosto clemente dal punto di vista del tempo. Ricordiamo che il problema di approvvigionamento dell'acqua di Messina deriva da una frana che ha colpito l'acquedotto. Ecco, a un certo punto ricomincerà a piovere. C'è preoccupazione da quel punto di vista? Nella frana di Calatabbiano abbiamo messo a punto un sistema di monitoraggio attraverso una doppia tipologia di oggetti, di strumentazioni. Uno è un radar con un'analisi interferometrica, dall'altra invece una stazione robotizzata che consente per 24 ore continue il monitoraggio attraverso sistemi più tradizionali. È ovvio che abbiamo chiesto all'AMAM l'avvio di una indagine conoscitiva di tutte le altre parti a rischio attraversate dalla condotta, affinché si possa sviluppare un programma di manutenzione e di controllo per tempo. Siamo in attesa però di questo prodotto. La ringrazio, grazie a Calogero Foti, commissario delegato per l'emergenza idrica a Messina, che da 18 giorni o è senza acqua o ha una fornitura intermittente. Magari lunedì risentiremo qualcuno che ci dirà se finalmente a Messina è tornata l'acqua come deve tornare. Ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, poi abbiamo molti argomenti per la seconda parte. Torneremo a parlare di quello che si presume essere un attentato a un ebreo ortodosso a Milano, torneremo a parlare di Medio Oriente con la presunta morte, una presunta morte di Jihadi John, lo jihadista britannico, e poi questo prepartita dell'Italia contro il Belgio, il calcio, tra poco. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, le nostre notizie principali. Fuori pericolo, l'ebreo ortodosso ferito a coltellate ieri a Milano. Intanto indaga l'antiterrorismo, è appena arrivato un comunicato della prefettura che dice che la sicurezza è stata elevata al massimo. Cortei in tutta Italia contro la riforma della scuola, tensione e lancio di bombe carta a Napoli, feriti 2 studenti e 4 poliziotti. L'orrore, la scoperta in una casa in Baviera, la polizia tedesca ha trovato i corpi di 7 neonati. È stato colpito in un raid americano in Siria, Jihadi John, il britannico dell'ISIS, protagonista di video con decapitazioni. Il PIL italiano peggio delle attese nel secondo trimestre, più 0,2% contro il più 0,3% previsto. Abbiamo parlato poco fa con il nostro Andrea Viali del Giubileo e di quello che si appresta a varare l'esecutivo. Nel frattempo questa mattina le Ferrovie hanno presentato il loro piano per il Giubileo. Che cosa prevede? Lo chiediamo a Nazareno Orlandi. Nazareno. Sì Simone, buongiorno dalla stazione. Allora, è proprio questa, nelle intenzioni di Ferrovie dello Stato, la porta d'accesso principale a Roma per il Giubileo. Il flusso di visitatori verso la capitale aumenterà di 7 milioni. Questa è la stima che ha fatto pochi minuti fa l'amministratore delegato delle Ferrovie, Michele Mario Elia. Ha presentato un piano che prevede un aumento di circa il 30% del traffico ferroviario. L'obiettivo è replicare il successo di Expo. Saranno 225 i treni che ogni giorno dall'8 dicembre raggiungeranno la capitale, collegamenti rafforzati anche dagli aeroporti romani, ci sarà un treno ogni 7 minuti da Fiumicino e ogni 15 minuti da Ciampino, e poi prosegue anche il restyling di alcune delle stazioni del nodo di Roma. Non tutti gli interventi però, Simone, saranno terminati entro l'inizio del Giubileo, ma Ferrovie ha assicurato che saranno ultimati entro la primavera del 2016. Più treni non solo verso Roma, verso la capitale, ma anche in direzione delle città della fede come Padova, Foggia per raggiungere San Giovanni Rotondo e Ancona per arrivare a Loreto. Alla presentazione c'era anche il prefetto Gabrielli, che però non ha voluto commentare il Consiglio dei Ministri di oggi e il decreto in arrivo per il Giubileo. Anche lui ha confermato che non tutti i lavori saranno però terminati per l'8 dicembre. Per ora è tutto. E grazie a Nazareno Orlandi per questo aggiornamento. Siamo a Bruxelles, dove si trova il nostro inviato Dario Ricci, che stasera seguirà la partita dell'Italia contro il Belgio, primo nel ranking FIFA, quindi un'amichevole. Dario, buongiorno, ma un'amichevole che ha una certa importanza, no? Sì, buongiorno da Bruxelles, Simone, sicuramente sì, perché affrontiamo quelli che classifica FIFA alla mano al momento sono i migliori al mondo, e se la classifica FIFA ogni tanto qualche scherzetto con i numeri lo fa, non mente certo la qualità che i diavoli rossi di Wilmots possono mettere in campo. Abbiamo tutti quanti sotto gli occhi il bel campionato che sta facendo il romanista Nainggolan, ma poi c'è anche del talento vero come quello del fantasista De Bruyne, mister 74 milioni per tanto, infatti il Manchester City se l'è assicurato quest'estate dal Wolfsburg, poi Witzel, che è stato a lungo oggetto del desiderio di molte squadre italiane, a partire dal Milan, insomma, veramente una squadra fatta di tanti talenti, che è costruita tra l'altro con un grande lavoro della federazione, lavoro che Conte ha dichiaratamente espresso di invidiare non poco. Ma quella di stasera, come stiamo raccontando anche da ieri, sarà sicuramente una partita particolare, anche perché si gioca nello stadio del Re Baldovino, cioè nell'ex Aisel, e verrà commemorata anche oggi la tragedia di 30 anni fa di quello Juventus-Liverpool che in realtà provocò 39 vittime. Ebbene, al 39esimo minuto la gara si interromperà e i giocatori commemoreranno con un minuto di silenzio quanto avvenne in questo stadio 30 anni fa. Ebbene, abbiamo incontrato pochi minuti fa qui sulla Grand Place a Bruxelles Andrea Lorentini, presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime dell'Aisel, che in quello stadio maledetto perse il padre. Sentiamo. Un punto fermo e soprattutto importante che questa iniziativa che abbiamo noi promosso con la petizione della scorsa primavera sia stata poi raccolta dalla Federcalcio, che è la massima istituzione calcistica italiana. Quindi il calcio italiano ha voluto fermare, fissare la memoria dell'Aisel con la cerimonia di ieri sera ma deve essere un punto di partenza, soprattutto un modo anche per responsabilizzare la Federcalcio rispetto anche ai cori e gli striscioni che ancora oggi offendono negli stadi italiani le vittime delle ISL. Buongiorno e benvenuto a Milo Hazbani, che è co-presidente della comunità ebraica di Milano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei. Eccoci qua per parlare di quello che è avvenuto ieri. Lo abbiamo raccontato anche nei nostri titoli. Nathan Graf, un ebreo ortodosso, è stato accoltellato ieri sera a Milano. La buona notizia è arrivata poco fa dall'ospedale, che è fuori pericolo. La cattiva notizia è che si sospetta che possa essere un atto terroristico, un po' come quelli che sono avvenuti in queste settimane in Israele, in quella che è stata definita l'intifada dei coltelli. Questa mattina lei, Hazbani, ha partecipato alla riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in prefettura. Vorrei capire da lei, che ha sentito anche quello che hanno avuto da dire gli inquirenti e ha anche delle sensazioni della vostra comunità, se ritenete che possa essere riconducibile a tutto questo episodio o possa essere invece un fatto di tipo diverso. Diciamo sì, le confermo che ho partecipato questa mattina in prefettura, non è emerso quello che mi sta dicendo lei dalla matrice islamica. Speriamo che sia un episodio isolato, certamente fatto contro un ebreo della comunità nostra, ma non è conducibile a un fatto, diciamo, di quello che sta succedendo in Israele, dell'intifada, dei coltelli, eccetera. Non è riconducibile né collegabile sostanzialmente. Né collegabile, secondo me. Non abbiamo nessun elemento che possa confermare questo, diciamo. Non si è sentito niente, non è stato rivendicato, la persona non ha detto niente in arabo come fanno di solito. Non c'è nessun tipo di segnale che possa essere collegato. C'è preoccupazione nella comunità oppure no? Ma diciamo che c'è un po' più di allerta e un po' più di controlli. Noi viviamo abbastanza blindati, diciamo, però conduciamo una vita normale e siamo integrati nel contesto cittadino. Abbiamo deciso di dare un segnale forte tenendo anche la scuola aperta. Abbiamo chiesto la collaborazione dei genitori e dei ragazzi a scuola, sono venuti quasi tutti quanti, insomma facciamo la nostra vita normale. Le istituzioni ci hanno messo a disposizione, cioè ci hanno promesso di aumentare un attimo il livello di controlli, e insomma per noi va bene così. La ringrazio, grazie a Milo Hazbani, co-presidente della comunità ebraica di Milano, per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi subito dopo andremo a parlare tanto dei dati sul prodotto interno lordo italiano, che sono andati peggio delle attese, come vi abbiamo raccontato, avremo un commento su questo, tanto su quello che sta succedendo tra Iraq e Siria, tra il raid americano che avrebbe colpito Jihadi John, appunto il jihadista britannico, dall'altra parte l'avanzata dei Peshmerga curdi, appunto, in Iraq. A tra poco. Effetto giorno. Eccoci di nuovo, effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri contatti sempre effetto giorno @radio24.it e WhatsApp al 349-238-6666. Le nostre notizie: l'ebreo ortodosso accoltellato a Milano, nessun segnale che la matrice sia islamica, ce l'ha detto poco fa il co-presidente della comunità ebraica, come avete sentito. I cortei in tutta Italia contro la riforma della scuola, a Napoli feriti 2 studenti e 4 poliziotti. L'orrore in una casa in Baviera, la polizia tedesca ha trovato i corpi di 7 neonati. PIL italiano peggio delle attese nel secondo trimestre, più 0,2% contro il più 0,3% previsto. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, effetto giorno, le notizie in 60 minuti, al microfono sempre Simone Spezia, e parliamo adesso dell'andamento del prodotto interno lordo italiano, che è andato lievemente peggio delle attese. Ci si attendeva per questo terzo trimestre un più 0,2% rispetto al trimestre precedente, un più 0,3% scusate, invece è stato un più 0,2%. Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, ciao Alberto e benvenuto. Buongiorno. Dunque, è stato tra l'altro un momento di battuta d'arresto per l'export. Questo che cosa può comportare per il prossimo futuro e per la chiusura dell'anno soprattutto? Beh, questo è un po' preoccupante perché fino adesso l'andamento dell'economia italiana è stata salvata per l'appunto dalla performance brillantissima delle imprese italiane e dall'economia italiana sui mercati internazionali. Ora i mercati internazionali rallentano ed è il grande tema oggetto del G20 di imminente apertura, si farà ad Antalya nel weekend. Tutti i grandi del mondo sono preoccupati per il rallentamento delle economie internazionali, soprattutto per i paesi dei cosiddetti BRICS, e questo ha un'influenza effettivamente sulle dinamiche delle esportazioni dei paesi che su quei mercati andavano e compensavano la carenza di domanda interna. Purtroppo l'Italia ha ancora una carenza forte di domanda interna, al contrario degli altri paesi che invece mantengono performance abbastanza brillanti sulla crescita del prodotto interno lordo, proprio grazie all'andamento dei consumi interni che compensa il cedimento delle esportazioni. E tra l'altro, per raggiungere quelli che sono gli ultimi livelli previsti, un più 0,9%, addirittura come dice Renzi sfiorare l'1% a fine d'anno, ci vuole una forte crescita in realtà nel quarto trimestre, perché la crescita acquisita, ossia quella, lo spieghiamo agli ascoltatori, che fa sì che la crescita dove si ferma in sostanza se l'ultimo trimestre fosse a zero è un più 0,6%, quindi ci vuole una spinta molto forte nell'ultimo trimestre. Sì, esatto, questo è quello che dovrebbe un po' preoccupare, diciamo così, nonostante la performance stia parlando di crescita, chi ha in mano le leve della politica economica. Appunto, nel 2015 la crescita acquisita è 0,6%, qualora nel quarto trimestre il PIL andasse a zero. Però per arrivare allo 0,9 o addirittura come si sperava, visto come era andato bene il secondo trimestre, all'1%, bisogna avere performance più che doppie rispetto a quello che si è visto adesso in questo terzo trimestre. Ti ringrazio, grazie ad Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Intanto io vi do un aggiornamento sui cortei degli studenti con i quali abbiamo aperto la nostra trasmissione. Sono stati sottoposti a fermo due giovani condotti in questura per accertamenti dopo gli scontri con la polizia. E noi passiamo a parlare della situazione all'estero. Ci colleghiamo con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti voi. Due temi che hanno entrambi in realtà a che fare con gli Stati Uniti in quello scenario. Da una parte l'attacco sulla Siria, nel quale sarebbe rimasto ucciso o ferito Jihad John, ossia il britannico aderente all'ISIS e protagonista di alcuni video di decapitazione. Dall'altra parte il supporto degli Stati Uniti ai Peshmerga curdi in Iraq, che ha consentito appunto agli stessi curdi di conquistare la città di Sinjar. Alberto, una tua analisi. Ma direi che la conquista di Sinjar è un punto d'arrivo importante, perché spezza i collegamenti tra la zona di Mosul irachena, città importantissima, strategica, occupata dall'ISIS, e la capitale Raqqa. In qualche modo, spezza i collegamenti e le possibilità, insomma, di rifornimento logistico. Quindi è un colpo da un certo punto di vista pesante all'egemonia del califfato in quell'area a cavallo tra la Siria e l'Iraq. Però da qui a parlare di una nuova offensiva verso Mosul, cioè la grandissima città da dove però il califfato venne dichiarato nel 2014, nel giugno 2014, qui ce ne passa, perché Mosul ha 2,5 milioni di abitanti, è un'area molto vasta, è stata tutto intorno minata dagli stessi jihadisti dell'ISIS ed è piena di cecchini, di sniper. Quindi un assalto a Mosul richiede probabilmente una preparazione ancora maggiore. Quanto poi all'uccisione di questo Jihad John, certamente fa effetto, colpisce, perché è stato l'uomo che con il coltello ha fatto le decapitazioni che abbiamo visto nei video, le prime proprio del califfato, però credo che questo non sia il colpo decisivo assestato a un'organizzazione che si è insediata ormai da 2,5 anni in un'area molto vasta a cavallo tra la Siria e l'Iraq. Gli Stati Uniti però danno l'idea di qualche modo cominciare a muoversi anche sul terreno, e questo forse è la risposta americana all'intervento russo in Siria. Alberto, abbiamo registrato ieri anche un attacco per certi versi inaspettato a Beirut, forse tu te lo aspettavi conoscendo un po' di più le cose. Beh sì, non solo me l'aspettavo, ma purtroppo c'era già stato nei quartieri libanesi in mano agli Hezbollah. Gli Hezbollah sono l'organizzazione sciita libanese legata a doppio filo all'Iran, capeggiata da Nasrallah, che combatte a fianco del regime di Bashar Assad ed è quella che praticamente ha liberato le montagne del Kalamun e che continua comunque a combattere i confini con il Libano. L'attentato di ieri in qualche modo ci deve far comunque preoccupare, perché è l'evidenza che il califfato è infiltrato quasi ovunque, in Libano, in Siria, come sappiamo bene, ma anche nei paesi vicini, dall'Iraq alla Giordania, insomma. Combattere il califfato non sarà affatto facile, e abbiamo visto anche che cosa vuol dire avere una destabilizzazione per esempio nel Sinai egiziano, anche lì organizzazioni legate all'ISIS. C'è davanti una strategia non certo di breve periodo per combattere il califfato, una strategia di lungo periodo che dominerà credo anche un po' il vertice che ci saranno in questi giorni, perché domani c'è il vertice sulla Siria a Vienna, poi il G20 di cui si parlava prima a proposito delle questioni dell'economia e della crescita, in realtà sarà dominato anche lì dalla Siria e dagli incontri tra Erdogan e Obama e tra Obama e Putin. Insomma, il Medio Oriente preoccupa quasi quanto e forse più ancora dell'economia stessa. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Il traffico, Mario Platero, ci sentiamo alla fine per i saluti.